spirito oltre l'oceano. Vola spirito oltre l'oceano. Free like a bird oltre l'oceano. Vai spirito mio, vola oltre l'oceano. Vai oltre la strada che porta al paradiso. Oltre la strada che porta al paradiso. Vola, vola, vola oltre le stelle, oltre i confini del mondo. Vola, vola oltre i confini del mondo. Vola, vola, vola oltre le terre che emergono. Vola alto, cigno mio, palesati davanti a questi miserabili in preghiera. Tuona con i tuoi lampi di luce. Vola, vola cigno mio, con i tuoi lampi di luce. Vola, risorgi dalle ceneri, la nuova rinascenza. La nuova rinascenza. Risorgi cigno mio, oltre le bruvole, oltre le ceneri. Dance over cloud, in the limbo beach, in the limbo, in the limbo beach, in the limbo. Vola, vola oltre le nuvole. Vola. E adesso che ce l'ho fatta, vuoi condannarmi come un povero schiavo? Ma io ti leggo le mani al tavolo e ti frusto e ti pugnalo alla schiena, stronzo, stronza. Vola.